Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Lorenzo Ferraria di Cini di CG Entertainment per presentare il documentario Room 999 di Lubna Lejus al cinema da giovedì 6 maggio 2024. Ben trovato! Ciao, buongiorno a tutti. Cosa racconta questo film? Questo è un film meraviglioso sul cinema, sul linguaggio del cinema e sul futuro del cinema e anche il presente del cinema, nel senso che attraverso gli occhi dei registi più famosi cerca di fare un punto della situazione sul cinema oggi rispetto alla diffusione delle piattaforme di streaming e al fatto che potrebbero in qualche modo cambiare e far evolvere il cinema verso strade che poi possono portare alla sua morte. È un progetto che ha un antecedente. Sì, è una sorta di remake di un documentario molto cinefilo che non tanti forse conoscono, che si chiama Room 666 e che fu girato nel 1982 da Wim Wenders, il quale già all'epoca era un po' preoccupato dalle sorti che la televisione in particolare, ma anche la VHS se vogliamo, che potevano avere rispetto alla diffusione del cinema, nel senso che chiaramente il fatto che vedere il cinema, i film a casa stesse prendendo piede in maniera importante preoccupava i registi del fatto che il cinema poi assumesse un linguaggio televisivo, potesse essere danneggiato per sempre da questo tipo di dinamica fondamentalmente, no? Quindi a distanza di 40 anni Room 999, sempre nella stessa situazione con dei registi differenti, pone sostanzialmente la domanda un po' sull'esistenza del cinema rispetto al fatto che appunto oggi magari è sempre la casa, ma sono le piattaforme di streaming quelle che minacciano il cinema in qualche modo, sempre che lo minaccino. Raccontiamo anche come è strutturato il film e quanti sono gli ospiti del progetto. Il film è strutturato quasi come una sorta di confessionale sostanzialmente, nel senso che ogni regista viene invitato a esprimere la propria opinione davanti a una telecamera all'interno di una stanza d'albergo a Cannes. Il film è stato girato durante un festival di Cannes del cinema e per cui insomma intervengono davanti alla telecamera tantissimi registi, e cito qualcuno: oltre a Wim Wenders c'è David Cronenberg, c'è Joachim Trier, c'è Asghar Farhadi, c'è Claire Denis, c'è Baz Luhrmann, c'è Alice Rohrwacher, c'è Pietro Marcello, c'è Paolo Sorrentino, Olivier Assayas e moltissimi altri. Cosa ne viene fuori? Il film, lo dico subito, non dà una risposta precisa alla domanda il cinema morirà, perché ovviamente è difficile dare una risposta, però ne viene fuori secondo me un ritratto molto interessante del linguaggio cinematografico oggi, ma anche un po' della nostra società, cioè il cinema in fondo è comunque uno specchio della nostra società, quindi tendenzialmente quello che avviene o che sta avvenendo in termini di cambiamento anche sulle abitudini di visione dei film è in qualche modo una sorta di riflesso di quello che avviene poi nella nostra vita quotidiana rispetto ai cambiamenti sociali in atto, alle crisi, a quello che ha determinato la pandemia e a come ha cambiato il mondo fondamentalmente. Quindi esce un ritratto, una fotografia della nostra società oltre che del cinema. Sì, infatti emergono anche diversi aspetti interessanti, ad esempio quello della produzione, produttori e produttrici sono molto preoccupati di piacere un po' a tutti e questo penalizza la libertà dell'arte che deve essere anche provocazione e deve essere qualcosa di disturbante a volte. E poi come è cambiato anche l'atteggiamento, l'attenzione del pubblico, di chi percepisce il film. Questo fatto è anche dovuto all'avvento del digitale con tutte le sue leggi, la sua frammentazione, la sua velocità. Sì, di fatto, insomma, il digitale sicuramente ha stimolato il pubblico a cercare la gratificazione immediata, diciamo così, il consumo immediato un po' usa e getta, tipico poi della società moderna fondamentalmente, no? E quindi la preoccupazione c'è anche da un punto di vista dei produttori che inseguono sempre i budget, perché chiaramente finanziariamente le opere devono stare in piedi e quindi cercano poi di avere dei film che rispecchiano dei temi che possano essere estremamente popolari, quindi magari lavorano molto sul genere commedia e chiaramente insomma i gusti si possono un po' standardizzare in questo senso, no? Quindi il pericolo è un po' questo, è quello che 40 anni fa aveva anche dichiarato lo stesso Wenders, che però insomma quest'anno è stato nelle sale con un film che ha fatto un successo assolutamente enorme e anche inaspettato e che di sicuro non segue le regole del genere popolare, diciamo così. Per cui comunque insomma per fortuna la realtà dei fatti non sempre appoggia questa teoria della popolarità dei contenuti e della mancanza degli indipendenti. Sicuramente i piccoli film sono più in difficoltà, è più difficile vederli, le piattaforme non sono interessate tendenzialmente a un certo tipo di contenuto. Speriamo però che il pubblico invece lo continui a cercare. C'è anche il punto di vista interessante di chi sostiene la necessità di guardarsi indietro alle opere del passato, perché essendo un linguaggio artistico non è detto che le opere di oggi siano migliori di quelle di ieri. No, assolutamente. Poi sai bene il lavoro che Gigi sta facendo per anche riportare in sala e che ha sempre fatto in realtà anche su altri mezzi per riportare in sala, dicevo, i capolavori del cinema del passato. Per noi è sempre stata una cosa fondamentale e quindi siamo riusciti anche ad avere il riscontro di un sacco di pubblico giovane ritornato in sala a vedere dei film di cui magari avevano sentito parlare, ma che oggi non era possibile fruire nell'esperienza in sala per come erano stati predisposti e immaginati dall'autore. Quindi sì, fondamentale è il ritorno al passato e riscoprire le proprie origini, secondo noi, anche nel cinema per poi affrontare il presente. Che distribuzione sarà? Sarà una piccola distribuzione, partirà da 7 centri urbani fondamentalmente per avere anche delle ospitate fondamentalmente, nel senso che accompagneremo le proiezioni con ospiti che potranno parlare del film e delle tematiche sociali anche inerenti al film. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Sì, potete tenere sotto controllo, oltre alla nostra pagina Facebook, anche il nostro sito cgtv.it alla sezione news, perché riporterà aggiornate in tempo reale tutte le sale che ospiteranno il film. Il documentario Room 999 di Lubna Lejus al cinema da lunedì 6 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Ferrari Ardicini di CG Entertainment. Alla prossima! Grazie a tutti e a presto. Con Marco Santarelli, regista del film Samad, al cinema lunedì 13 maggio 2024, ben trovato. Ciao, eccoci. Cosa hai raccontato? Samad, racconto la storia di un ex detenuto che rientra in carcere per partecipare a un incontro con i suoi ex compagni di carcere e rientra perché è considerato un esempio perché si sta rifacendo una vita, sta cambiando un po' e quindi decidono di farlo rientrare per parlare della sua nuova vita con i suoi ex compagni. È che durante questo incontro scoppia una rivolta all'interno del carcere e Samad si ritrova in mezzo, si si trova a fare i conti con i suoi ex compagni che credono che la sua redenzione, la sua nuova vita sia solamente un bluff, e il mondo fuori che pensa, lo crede un complice di rivoltosi, e di conseguenza si ritrova in mezzo tra questi due fuochi e cerca, fa di tutto insomma per salvare la sua vita e salvare la vita degli ostaggi. Quindi insomma Samad è una storia che parla, io penso che il punto centrale del film sia proprio il tema della libertà, nel senso che il film si interroga sul significato della libertà come scelta necessaria per trovare il proprio posto al mondo, una scelta che nel caso del nostro protagonista lo porta a scontrarsi con tutto quello che era il suo passato e tutto quello che ha davanti, che crede essere un po' il suo futuro. Come viene fuori questo racconto? Io mi ero occupato di carcere e delle condizioni dei detenuti stranieri, perché il protagonista è un ragazzo marocchino, nei miei ultimi documentari, e nasce da questa esperienza l'idea di Samad. Nel film ho coinvolto molti dei ragazzi che ho conosciuto con i documentari in carcere, che sono protagonisti della storia, e quindi sì, è molto legato al mio passato di documentarista e ai miei precedenti lavori girati in carcere a Bologna. Come ci hai lavorato sopra? Ho fatto un lavoro di scrittura con due sceneggiatori, ma l'apporto fondamentale al film l'ha dato uno degli attori non professionisti del film, che avevo conosciuto nel mio ultimo documentario in carcere, coinvolto nella scrittura del film. Insomma, anche se è un film di finzione, è un film in cui ho cercato di portare dentro un po' tutta quella che è stata la mia esperienza documentarista, e questo mi ha aiutato molto a gestire, anche a vivere una situazione completamente nuova e cercare un mio linguaggio per raccontare la storia, insomma cercando un po' di incastrare quello che era un po' il mio linguaggio come regista di documentari e con quello che è un po' la macchina, l'apparato cinematografico tradizionale. Com'è stato il lavoro con gli attori non professionisti? È stata, diciamo, una delle cose più belle e interessanti del film, perché i protagonisti principali sono quattro ragazzi marocchini, due ex detenuti e due ragazzi che lavorano a Bologna, che fanno teatro amatoriale, e con loro insomma si è creato un rapporto di fiducia che è fondamentale nella mia ricerca come documentarista, no? E ho cercato di costruire una fiducia diversa, no, con loro, a prescindere un po' dal fatto che eravamo sul set, e questa cosa ha funzionato, ecco, non era scontata perché chiaramente loro erano la loro prima esperienza di cinema, è la prima volta che si trovavamo davanti a una camera, però diciamo che il rapporto umano che abbiamo costruito e il fatto che loro si sono fidati un po' della mia ricerca e di quello che era l'idea che avevo in testa, che volevo raccontare, è stato determinante. Poi tieni conto che il film affronta anche il tema della libertà religiosa, e è chiaramente un tema un po' difficile da affrontare con ragazzi di fede musulmana, perché il protagonista rientra in carcere vivendo una profonda crisi religiosa, insomma, ecco, quindi non è stato facile toccare questi argomenti, però insomma, ce l'abbiamo fatto e sono contento del lavoro che abbiamo fatto insieme. Che distribuzione sarà? In quante sale? Il film innanzitutto, questa è una cosa che è importante, è sostenuto da Antigone, che è entrata alla fine, nel senso ha visto il film, gli è piaciuto e ha deciso di patrocinarlo, e questa è stata una cosa molto bella. Iniziamo il tour il 13 a Piacenza, poi Bologna, Reggio Emilia, e saremo a Roma il 20, 21 e 22, il 20 e il 21 al Cinema Aquila e il 22 al Farnese, e poi continueremo il tour, insomma, Bari, Lecce, Taranto, Pesaro, Padova, Milano, Torino. Ecco. Il film Samad al cinema da lunedì 13 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Santarelli. A presto! A presto, grazie Federico, ciao! Daniela Porto, autrice dell'omonimo romanzo e coregista del film Il mio posto è qui, in uscita al cinema il 9 maggio 2024. Ben trovata! Salve a tutti! Di cosa si parla? Il film racconta una storia di una strana amicizia tra una ragazza madre che vive nella Calabria degli anni 40 e un omosessuale. Un'amicizia all'inizio che parte insomma con qualche difficoltà, visto che Marta respinge questo omosessuale, ma che poi invece avrà dei risvolti molto interessanti. Come nasce tutto? La storia nasce da un racconto che mi fece qualche anno fa mia madre di un uomo che in un paesino della Calabria aiutava le ragazze ad organizzare i loro matrimoni, una sorta di wedding planner anche libera. Era un omosessuale, in questo paesino tutti sapevano della sua omosessualità, nonostante questo era sempre molto ben accolto dall'intera comunità. Da lì mi è venuta in mente l'idea di far incontrare negli anni 40 un omosessuale e una ragazza madre. Insomma, quindi un po' due persone che vivevano una situazione un po' fuori dalle regole per quegli anni. Come avete deciso la messa in scena? Ovviamente abbiamo preso la storia dal libro, che è precedente naturalmente al film, però lo stesso libro, come era strutturato, aveva molte scene già cinematografiche, per così dire. Quindi abbiamo trasposto la storia dal romanzo al film in modo molto semplice, senza tradire la storia raccontata nel libro, e abbiamo deciso di fare un racconto molto realistico, molto crudo. Rispetto alla pagina scritta, su quali elementi avete voluto puntare? Innanzitutto su questa particolare storia di amicizia, quindi dando molto spazio ai due attori Ludovica Martino e Marco Leonardi, che hanno creato due personaggi davvero di una grande sensibilità, e soprattutto con i costumi, con le scenografie, con il trucco, abbiamo cercato di dare una grande forma di realismo alla storia. Pensa, edulcorare delle situazioni che in realtà erano piuttosto brutali e tristi. Com'è stato il lavoro registico a due? È stato molto bello. Cristiano Portone, che nella mia vita è anche mio marito, quindi siamo abituati a fare coppia e a lavorare insieme. Quindi siamo riusciti a creare sul set una bella armonia a due, insomma, di co-registi, dividendoci anche un po' a tratti dei compiti. La cosa bella è che avevamo, rispetto alla storia che stavamo raccontando, lo stesso approccio, cioè volevamo mettere in risalto questa storia di riscatto femminile, quindi il fine ultimo era condiviso e ci piaceva molto poter raccontare il cambiamento di Marta, un cambiamento psicologico lento ma continuo verso una strada di libertà. Quali sono gli echi sull'oggi a proposito? Purtroppo ci sono molti richiami alla situazione della donna oggi, anche se naturalmente è una situazione diversa rispetto a quella degli anni 80, però le cronache ci raccontano poi altre storie, i femminicidi, insomma, sono purtroppo all'ordine del giorno, o situazioni di differenza salariale che non permette quindi alle donne di avere un maggior peso all'interno della società o all'interno di situazioni lavorative in cui lavorano. Quindi purtroppo c'è ancora molta strada da fare per avere una parità di trattamento tra uomini e donne. Che distribuzione sarà? In quante sale? Siamo distribuiti dalla Adler e ovviamente sarà distribuito in tutta Italia, e quindi una distribuzione nazionale su tutto il territorio. Da mercoledì saremo già in Calabria in tour per fare una serie di presentazioni, dando ovviamente priorità alla Calabria, regione in cui è ambientata la storia e che ci ha ospitato durante le riprese insieme alla Puglia. Poi da Calabria proseguiremo a Bologna, Padova, Firenze, Parma, ma copriremo un po' tutta l'Italia. A proposito di Calabria e Puglia, com'è stata la lavorazione in loco? In Calabria abbiamo girato a Gerace, un paesino in provincia di Reggio Calabria, ed è stato molto bello perché è un paesino non molto grande, un borgo medievale che trova a disposizione una grandissima varietà di scenografie, e la popolazione ha partecipato veramente con grande gioia del film in vari ruoli e aspetti. In Puglia, ovviamente con la Puglia Film Commission, c'è una sorta di professionalità di cinema già molto formati da diversi anni, quindi avevamo già girato in passato lì, ma ci siamo sentiti a casa, un ritorno a casa. Il film Il mio posto è qui al cinema da giovedì 9 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Daniela Porto, autrice dell'omonimo romanzo e coregista. A presto! Grazie, a presto! con Vanina Lappa, regista del documentario Nessun posto al mondo, al cinema da martedì 7 maggio 2024. Bentrovata. Grazie, bentrovato te. Di cosa si parla? Il film racconta la storia di Antonio, che è un pastore dell'entroterra del Cilento, un pastore che sembra riuscire a comunicare soltanto con gli animali, e attraverso i suoi conflitti con la comunità, con la burocrazia, le istituzioni, scopriamo un paesaggio fatto di transumanze, di rituali che si svolgono sulla montagna del Cervati, che è la vetta più alta della Campania. Com'è nato tutto? Io ho conosciuto Antonio mentre stavo girando Sopra il fiume, il mio primo documentario, sempre ambientato in Cilento, e questo pastore ha incominciato a parlarmi delle transumanze che faceva e mi è venuta voglia di conoscere questo mondo. Io stavo facendo un documentario che era incentrato un po' sulle dinamiche di paese e sentivo che attraverso di lui potevo scoprire un'altra dimensione, che era quella verso la montagna, verso la campagna, che aveva delle leggi ben diverse da quelle del villaggio. Come hai deciso di metterlo in scena? Io non scrivo molto i documentari, nel senso che mi piace anche farmi portare da quello che succede, però ovviamente quando incontri un personaggio ci deve essere anche un potenziale narrativo, e quello che intuivo era che seguendo i suoi conflitti mano a mano sarebbero stati come dei puntelli su cui appoggiarmi a livello narrativo per raccontare la sua storia, insomma, e che attraverso il suo sguardo al contempo si poteva raccontare anche un paesaggio che aveva eco con quello che succedeva anche a lui. Com'è stata la fase delle riprese? Per quanto tempo lo hai seguito? Io l'ho seguito per 4 anni. I primi 2 anni di riprese mi sono più che altro serviti per avvicinarmi a lui. Le riprese che ho scelto poi alla fine per montare sono quelle degli ultimi 2 anni. I primi 2 anni mi sono serviti più come avvicinamento, per avvicinarmi a lui, perché lui percepisse la telecamera come qualcosa di naturale, e soprattutto anche per farmi accettare dagli altri pastori, perché poi attraverso di lui ho conosciuto anche gli altri pastori del luogo, e quindi ci ho messo un po', ecco, per rendere la mia presenza qualcosa di naturale, quanto come se facessi parte un po' del loro paesaggio, ecco. Si è riconosciuto nel tuo lavoro? Sì, è venuto anche al Festival dei Popoli quando l'abbiamo presentato a Firenze, e sì, si è riconosciuto, quindi sono anche contenta che insomma sia stato contento del film, perché alla fine l'abbiamo fatto anche insieme. Il titolo? Per me ha una doppia valenza, perché Antonio dice spesso che la montagna del Cervati è bella come nessun altro posto al mondo, ma al tempo stesso il protagonista sembra non trovare un posto al mondo, dovuto un po' all'incapacità di comunicare con gli altri e ai conflitti che ha con l'esterno. Cosa ti ha impressionato di questo incontro e di questo racconto anche? Quello che mi ha impressionato era che comunque Antonio, il protagonista, benché fosse un uomo più anziano di me, che veniva appunto da un territorio che alla fine è anche vicino ma che sembra molto lontano, potesse avere delle cose anche universali in cui ci si poteva riconoscere, e che al tempo stesso mi permetteva di scoprire mondo, che è quello dell'entroterra del Cilento al confine con la Basilicata, che è poco conosciuto e che sembra rimasto un po' indietro nel tempo. Prima ci parlavi del tuo film precedente, qual è il tuo percorso artistico? Io in verità non ho fatto scuole di cinema, ho iniziato con la pittura, ho fatto l'Accademia di Belle Arti perché pensavo che la pittura mi permettesse in qualche modo di sviluppare un immaginario e di capire come creare il mio, come far funzionare un linguaggio, quindi vengo dalle arti visive più che dal cinema, però ho sempre avuto il desiderio di fare cinema. Poi dopo l'Accademia ho fatto un corso con Giorgio Diritti sul documentario, lì ho scoperto il documentario e da allora non l'ho più lasciato. Che distribuzione hai scelto per il tuo lavoro? La sto facendo io, è un'autodistribuzione che sto portando avanti da sola, quindi non ho avuto molta scelta, insomma. Sarà, immagino, una sorta di tour accompagnato dalla tua presenza. Sì, sì, accompagnerò il film nelle sale. Abbiamo adesso una proiezione il 7 maggio al Cinema Farnese a Roma, il 16 maggio al Bloom di Mezzago, il 21 al Cinema Arsenale di Prato e il 28 al Cinema Truffo di Modena. Questo è un po' il percorso nel mese di maggio e ti accompagnerò appunto il cinema nelle sale. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Potete seguire la pagina Nessun Posto al Mondo, sia Instagram che Facebook, dove appunto viene aggiornato il calendario sulla distribuzione e il percorso anche festivaliero del film. Il documentario Nessun Posto al Mondo al cinema da martedì 7 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Vanina Lappa. A presto! Grazie a voi. Con Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra per presentare il loro documentario La Casa Viola. Ben trovati! Grazie. Grazie, ben trovato. Di cosa si tratta? Di cosa parla il vostro film? Parla della storia di rinascita di donne che, fuggite dal maltrattante, vengono accolte in case di rifugio e da lì cominciano a progettare una nuova vita attraverso un percorso di dolore, ma di grande forza, grande coraggio. Come nasce il progetto? Per tentare di fare un altro tipo di narrazione, in realtà. Spesso quando si parla di violenza di genere si fa vedere la donna solo come vittima e non si pensa mai al grande lavoro invece che una donna fa, aiutata dalle professioniste dei centri di violenza, per uscire dalla violenza, nonostante la legge italiana, ma anche abbiamo visto internazionale, non agevoli il lavoro delle donne che oppongono alla violenza, nel senso che sono loro purtroppo a dover andare via di casa, non è il maltrattante ad essere allontanato, e anche quando sono in serio pericolo di vita, quindi sono loro che devono andare via. E attraverso le storie delle donne che raccontiamo, seguendo soprattutto un input dato da loro, il documentario ha come scopo quello di dire che uscire dalla violenza è possibile, che non si è sole in questo percorso, che quindi con certo, molto coraggio, molta determinazione, le donne possono porsi a questo tipo di cose. Com'è costruito il documentario? In maniera molto difficoltosa, perché non abbiamo potuto riprendere i volti, non abbiamo potuto riprendere in maniera chiara i dettagli perché potevano essere riconducibili alla donna maltrattata, per cui il maltrattante appunto avrebbe potuto ricondurre l'indicazione. Ci teniamo a ricordare che queste case di rifugio in tutta Italia sono a indirizzo privato, indirizzo riservato, nel senso che nessuno lo sa, né le forze dell'ordine, né i servizi sociali, sono segrete per tutti. Noi abbiamo operato con una truppa ridotta all'osso, eravamo veramente quattro persone, il fonico, l'operatore, io e i ragazzi, per cui è stato un lavoro difficile da costruire, con delle immagini che abbiamo dovuto letteralmente inventare sempre il tema ogni volta. Però il risultato è soddisfacente, diciamo, questa sfida che per noi era quasi insormontabile. A quali strutture vi siete rivolti? Noi abbiamo lavorato su tre province abruzzesi, Pescara, Chieti e L'Aquila. E la struttura pescarese si chiama Nanche, quella che opera nell'Aquilano è Horizon Service, e poi c'è quella di Chieti che è Alfa. Naturalmente la casa che noi riprendiamo è composta da tutte queste case, ecco, e diventa addirittura un luogo ideale alla fine, anche se abbiamo operato in queste strutture che sono state sul nostro territorio regionale. Quante donne avete seguito? Una decina in tutto, anche se poi abbiamo raccolto anche testimonianze di altre donne che erano già uscite da queste case di rifugio da anni, quindi ci hanno raccontato la parte del percorso fuori dalla casa di rifugio. Quindi c'è un avvicinamento di donne dovuto anche a fattori di sicurezza. Per esempio, noi andavamo a girare per poter lavorare con magari una donna e poi andavamo a scoprire che invece era stata stata. Quindi sì, ricominciava da capo, però sempre mantenendo come vivo sempre l'obiettivo, che era appunto quello di poter raccontare degli episodi di successo e di rinascita. Ci sono degli spazi web in cui si può saperne di più del vostro documentario? Sì, abbiamo un sito www.lacasaviorafilm.it dove ci sono tutte le informazioni. Poi c'è un sito Instagram. La Casa Viola, un film. Che percorso distributivo state facendo? Quella è una corsa ostacoli, forse più complicata, non dipende da noi. Allora, abbiamo un paio di distributori, uno nazionale e uno internazionale interessati per accedere appunto alle piattaforme tattiche. Ma la cosa che più ci piace, che è più vicina alle nostre, anche al nostro percorso, è quello di fare proiezioni un po' in giro per l'Italia, perché uno degli accordi, se possiamo chiamarlo così, con le donne che abbiamo contattato era quello di far vedere il lavoro a più persone possibili. Quindi stiamo lavorando nelle scuole, abbiamo avuto una proiezione meravigliosa con 400 studenti a Pescara di tutti gli istituti della città, cui hanno partecipato studenti, hanno contribuito poi con delle testimonianze molto importanti e effettive. Partecipiamo ad alcuni festival, quindi anche lì di discussione, di gestione e di contributi da parte degli spettatori molto importanti. E speriamo che la televisione possa essere interessata, perché è un lavoro che ha una durata adeguata ed è, secondo noi, un altro percorso un po' nuovo rispetto alle nostre esperienze che stiamo intraprendendo, è quello di far vedere il lavoro in alcune università straniere e italiane tramite la consulente scientifica del film, che è la professoressa Trivelli della Cattedra di Storia del Cinema di Pescara, che sta mettendo su questi contatti. Abbiamo avuto un incontro con l'Università di New York, con gli studenti appunto del corso di cinema e letteratura italiana a New York, e prossimamente avremo un incontro con di Cork in Irlanda e poi Lipsia, sempre nel mese di maggio, in Germania. Sì. Il documentario La Casa Viola, un saluto e un ringraziamento ai registi Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra. A presto! Grazie a voi, a presto! Ciao, grazie. Ciao Federico, ciao. Con Tommaso Valente, regista del documentario Il Filo di Sabbia, ben trovato. Ciao Federico, grazie. Raccontaci di questo lavoro. È un documentario molto molto indipendente, nato e costruito pezzetto per pezzetto negli ultimi 2 anni e mezzo con delle organizzazioni che si occupano di fare dei progetti di cooperazione territoriale nei campi Sahrawi. Quindi non nasce con un percorso cinematografico classico, non nasce con una distribuzione a monte, con una prevendita televisiva, con dei fondi di qualsiasi genere, ma proprio da un'esigenza di raccontare la storia queste organizzazioni all'interno di quelli che sono forse i campi profughi più longevi della nostra storia. Ci sono circa 50 anni che i Sahrawi vivono in un pezzo di deserto confinati dalla loro terra. Come nasce tutto? Perché l'esigenza era quella di riuscire a portare questa storia, era quello di riuscire a portare questa storia al di fuori di quelle poche persone che sono informate sul fatto che lì c'è tuttora una guerra tra il fronte polisario, che è di fatto la rappresentanza dei Sahrawi anche a livello internazionale, e il Regno del Marocco, perché il Marocco è un regno, anche questo non molti lo sanno, e il fatto che dei coloni, un po' come succede in Palestina, un po' come succede con il Kurdistan, con i curdi, hanno di fatto espropriato la patria dei Sahrawi e li hanno lasciati per anni solamente alle cure della comunità internazionale in questo fazzoletto di deserto a sud dell'Algeria. Di quante persone stiamo parlando e com'è la loro situazione attuale? I dati dell'ONU sono ovviamente un po' come la questura e gli organizzatori. L'ONU dice che sono 170.000 censiti e chi vive nei campi dice che sono circa 300.000 nei campi. in tutto il mondo, perché ovviamente questo tipo di situazione è soggetta poi a diaspora, ovviamente, perché 50 anni dei campi profughi, sfido chiunque a restarci e a resistere in maniera massiva. In tutto il mondo i Sahrawi sono circa 3 milioni. Nei campi profughi la situazione è fortunatamente molto dignitosa, perché comunque è stata lasciata una forte autonomia al fronte polisario nella gestione autonoma della propria emergenza. E quindi non ci sono quelle situazioni di degrado che si trovano spesso in dei campi che sono a tutti gli effetti terre di nessuno. I Sahrawi sono una comunità molto forte e grazie a questa forza riescono a resistere con grande dignità, mantenendo la propria cultura e replicando tutte quelle tradizioni che caratterizzano l'unità di un popolo. Come hai articolato il documentario? Molto sull'osservazione, principalmente delle persone che fanno cooperazione all'interno di questi campi, però poi è strutturato secondo 4 macro aree di cooperazione, nelle quali le storie si intrecciano, quindi non sono alternate ma intrecciate. Queste macro aree rappresentano sostanzialmente la sfida dell'uomo contro la natura, la ricerca dell'acqua nel deserto, la sfida dell'emancipazione femminile, dell'empowerment femminile, il lavoro di cura nei confronti dei bambini e i nuovi profughi che arrivano continuamente dalle zone di guerra nel Sahara occidentale. E quindi in queste 4 macro aree le storie di questi 5 cooperanti si intrecciano. Che percorso distributivo avrà? Molto anomalo, nel senso che per metà sarà distribuito in sale cinematografiche, come è successo ad esempio a Bologna, dove il Cinema Galliera ci ha ospitato, come succederà a Feltre, in provincia di Belluno, dove anche lì un cinema ci metterà in programmazione come tutti gli altri film. Dall'altra parte ci sono diversi realtà sociali e di cooperazione che stanno promuovendo il film, quindi faremo una proiezione a Scampia presso la Casa della Cultura con l'associazione Gridas e faremo poi anche Ferrara, Reggio Emilia attraverso diverse associazioni, attraverso l'Arci. Insomma, il film è uno strumento libero di conoscenza che ci può essere chiesto da qualsiasi associazione, qualsiasi gente che voglia portare questa causa ad un pubblico e alla comunità. È stato presentato anche ad esempio al Consiglio Comunale di Campi Bisenzio durante l'incontro della rete Sahrawi quest'anno, di cui Campi Bisenzio era, per dire, capo, cioè, promotore di questo incontro. È uno strumento molto, molto fluido rispetto ad altri film che hanno un percorso più classico. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Sulla pagina Facebook e Instagram di Instant Documentary troverete sempre aggiornate, anche sul sito web instantdocumentary.it. Il documentario Il filo di sabbia. Un saluto e un ringraziamento al regista Tommaso Valente. A presto! Grazie a te Federico, a presto! Con Anna Maria Gallone, co-direttrice artistica della 33esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, in sala a Milano, in streaming su mymovies.it dal 3 al 12 maggio 2024. Ben trovata! Grazie, buongiorno a tutti. Raccontiamo cos'è. Dopo anni di ampliamento, una volta era solo Festival del Cinema Africano, adesso da parecchi anni dei 3 continenti, e quest'anno è un anno speciale perché infatti compiamo 33 anni e non a caso l'immagine e il claim di questa edizione ci ispira al numero 3, ai 3 continenti, alle 33 edizioni, e anche perché è un simbolo di armonia, il 3 in molte culture. La programmazione è molto ricca anche quest'anno. 2 caratteristiche sui contenuti: una forte presenza delle donne. Molte registe donne si affacciano alla regia e portano film estremamente emotivi e forti. per citarne qualcuno dei lungometraggi, così fandom. Potrei citare per esempio Disco Africa, perché è una storia malgascia di Luc Ravanayona, che racconta il risveglio della coscienza politica in Madagascar. Eccezionale questo film del giovanissimo regista, perché non esiste praticamente una produzione del Madagascar, quindi è una perla rara che speriamo apra la strada ad altri registi. Poi è molto interessante una seconda opera, Demba, del senegalese Mamadou Dia, premiato a Locarno in vari festival, perché tratta un tema molto raro nella cinematografia africana, cioè il disturbo mentale, e viene raccontato con una certa crudezza ed è molto molto interessante. Oppure possiamo parlare di un film che a me è piaciuto moltissimo, Valentina o la Serenidad, della regista Angeles Cruz, è un'opera seconda e racconta il contatto con la morte di una bambina, alla quale muore il padre, e deve superare questo trauma in una sfera magico-surreale, è molto molto bello. Ecco, questo film messicano, a questo proposito devo dire che c'è una grossa fioritura del cinema dell'America Latina. Abbiamo ricevuto molti film dell'America Latina e devo dire è stata difficile la scelta. E poi parliamo delle altre sezioni, quelle che io vi ho citato adesso sono quelle del concorso ufficiale Finestre sul Mondo. Poi c'è la sezione dei cortometraggi africani. Come ogni anno, noi abbiamo uno zoom particolare sull'Africa, che è stato il nostro continente iniziale, alla quale ci lega un grande amore. E i cortometraggi africani sono invece molto, molto diversi tra loro. Molti vengono anche, come spesso accade, da registi africani che vivono altrove, questo ormai è sempre più frequente. Pochi sono quelli che vivono costantemente in Africa. E per noi è importante il concorso dei cortometraggi perché è un po' una pepiniera. E siamo molto orgogliosi di aver scoperto attraverso i cortometraggi quelli che poi sono diventati registi di grande fama e hanno realizzato film magnifici conosciuti in tutto il mondo. Possiamo citarne uno che mi ha particolarmente colpito, La Voix des Autres di Fatima Cacci, che racconta di un interprete che deve tradurre le domande fatte ai clandestini per vedere se possono essere ammessi a vivere in Europa oppure no, ed è di una grande crudezza, di una profonda sensibilità, mi è piaciuto moltissimo. Oppure forse Prey, dello scrittore più volte premiato Khaled Abdul Nelson, che indaga il valore della fratellanza, e anche qui c'è il dolore della perdita. Però ci sono alcune cose particolarmente divertenti nei cortometraggi, per esempio c'è Festival Slats di Abu Sissé, quale racconta come una madre nigeriana, scontenta dell'amicizia e del comportamento del figlio, lo prende a schiaffi più volte vigorosamente, facendogli cambiare vita. Nel concorso extra, che è dedicato ai registi italiani o stranieri residenti in Italia che ci raccontano i tre continenti, ci sono molti film toccanti, uno in particolare è Lonely, presentato ad Alice nella città a Roma, ed è sostenuto qua con la collaborazione del consolato svizzero. Lonely è del regista Michele Pennetta e parla dell'incontro di un ragazzo molto malato che è stato di dover morire e una ragazza disadattata nigeriana che non riesce a vivere con sua madre. Queste due anime in pena si incontrano e unirle è la musica. Una nota importante sul concorso extra è che negli scorsi anni facevamo un po' di fatica a mettere insieme questi film. Adesso invece sono numerosissimi e siamo contenti che gli italiani ci raccontino il loro sguardo. Poi c'è una costola del festival che è Niue, ed è l'unico festival in Italia che parla delle tre culture ed è dedicato alle scuole, infatti My World Young Film Festival. È sempre più successo ed è molto bello perché in internet si possono contattare tante scuole d'Italia, è sempre molto seguito, mentre a Milano i film sono con la presenza del regista. In totale sono 42 film, di cui due prime mondiali. Nell'insieme questo ci fa molto piacere. Abbiamo una giuria d'eccezione, perché oltre a Lizgari, che è un regista iraniano, e Anastasia Piattotta di Wanted, abbiamo la Bias, il famosissimo regista che terrà una masterclass, e di lui proietteremo al Cinema Prada tre film, North, The End of History, From What Is Before and The Woman Who Left. Sono film molto di questa caratteristica, ma anche molto importante perché raccontano attraverso uno stile particolarissimo la storia del suo paese, delle Filippine. Ancora in coda possiamo parlare di African Talks, che ormai da anni con la fondazione Edu ci porta immagini dell'Africa, di un'Africa che non piange ma che vive con grande novità, e quest'anno è dedicata alle arti visive. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? festival@coeweb.org e anche MyMovies, perché la maggior parte dei film si potrà vedere anche in internet. 33esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina in sala a Milano, in streaming su mymovies.it dal 3 al 12 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Anna Maria Gallone. A presto! Grazie, venite al cinema o guardatelo su MyMovies. Ciao! Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per presentare le novità del mese del portale. Ben trovato! Ciao, buongiorno a tutti e tutti. Quest'oggi vi raccontiamo innanzitutto cosa circuita nelle sale, negli spazi sociali e culturali italiani con OpenDDB. In primis il progetto 11 giorni, un progetto a cui teniamo molto, realizzato da Nicola Zambelli, uno degli autori di SNK Factory, all'interno del carcere di Brescia Nero e Fischione, conosciuto alle cronache come tanto Mombello, ed è uno dei carceri in cui, tra l'altro, in questa fase dove ahimè il tema è tornato molto alle cronache, è anche uno dei carceri più attenzionati per il tema del sovraffollamento, non solo. Nicola, appunto l'autore, mi chiede di aprire di fare una finestra osservativa dentro la struttura, che è una cosa molto preziosa e rara, come potete immaginare, e da questa esperienza è nato un progetto ibrido, è sia mediometraggio di 30 minuti per le proiezioni pubbliche, ma anche pillole da un minuto pubblicate sul canale Instagram del progetto 11 giorni. Il progetto sta adesso appunto entrando nella fase di condivisione negli spazi, nelle città, nei territori del cinema. Avremo anche questo venerdì una data, per esempio, a Val 61 qui nel nostro spazio sociale di Bologna, e siamo appunto a disposizione per organizzare anche altre iniziative tramite la richiesta sul sito web. È un progetto a cui ovviamente teniamo molto, che va a toccare un tema come quello della condizione detentiva in questo paese, che ciclicamente torna alle cronache per diverse ragioni, e crediamo appunto sia un'urgenza parlarne collettivamente, come faremo questo venerdì, ma anche condividere queste immagini e testimonianze estremamente preziose, interamente costruite con le voci di chi il carcere lo vive questi giorni, cioè chi appunto dentro per una pena detentiva. Abbiamo sempre nelle sale italiane anche altri 4 film, che sono appunto Kissing Orva, ciò di cui abbiamo avuto modo di parlare, che continua la sua tournée, e anche Care Seekers, l'altro film prodotto da SNK Factory in questi mesi, e continua la tournée anche di Sconosciuti Puri, anche di questo film abbiamo avuto l'occasione di parlare nelle scorse settimane, e su di questi film, come sempre, vivono grazie al passaparola, quindi qualsiasi aiuto in termini di diffusione delle notizie, di aiutarci a organizzare le proiezioni, potete trovare tutti gli strumenti per aiutarci a farlo. Continua a essere anche proiettato, spesso anche in forma di supporto a raccolte fondi per da inviare a Gaza, il nostro Sarura, film realizzato in Palestina, circa è uscito 3 anni fa nelle sale, ma che purtroppo le ragioni della situazione di Gaza è un film che sta avendo una seconda vita. Non abbiamo mai nascosto il legame con la Palestina come gruppo di produzione SNK, ma anche il nostro primo film, Tomorrowland, è stato realizzato proprio a 2 anni, dove è stato girato anche Sarura, e torniamo tra l'altro con un bel riconoscimento, nel senso che Sarura ha appena vinto il primo premio a importante festival del Mediterraneo in Algeria, e siamo molto contenti, al di là del premio, del fatto che questo film possa dare un contributo concreto sia rispetto alla causa palestinese sia rispetto in questa fase a tutte le raccolte fondi che sono in corso per aiutare la popolazione di Gaza. Per quanto riguarda invece la sezione streaming, anche questo mese abbiamo diverse novità, ne segnalo sicuramente almeno 3. Uno, l'arrivo di Brucia ancora dentro, il documentario che racconta la terribile notte del 13 marzo 2003, dove il nostro Davide Cesare fu accoltellato e ucciso dai neofascisti a Milano. È chiaramente per noi un lavoro molto importante, che siamo molto contenti di aver accolto in catalogo, perché la memoria collettiva si mantiene anche grazie soprattutto a opere come il documentario oggi sa esprimere. E altri 2 lavori, uno è molto particolare, si chiama Vivis Bologna, come capisci dal titolo è ambientato a Bologna ed è un lavoro che usa un linguaggio molto particolare anche di in qualche maniera scoperta di parti nascoste della città, ma non in senso meramente urbanistico, ma anche in un senso soprattutto umano. Bologna è una città che racchiude molte di queste storie ed è un film che le racconta secondo me molto bene. E l'altra e l'ultima segnalazione che vi facciamo invece è il ritorno in streaming, perché non è un film di oggi ma di qualche anno fa, della Jump Cut, realizzato da Sebastiano Lutensinga. Complimenti per la sesta, che racconta della nascita di Catartica, uno degli album più importanti di Mario Nesult, e che appunto stiamo aiutando adesso nel rilancio streaming per il trentennale del disco, e che ci fa piacere accogliere anche in linea con altri documentari come lo stesso Kissing Gorbachev, dove la musica si intreccia al piano politico e sociale. Come sempre vi ricordo che tutti questi film e molto altro sono disponibili su openedv.it e ci risentiamo poi il prossimo mese con le prossime novità. Un abbraccio Paco! Grazie a voi! Giulia Giorgi, direttrice artistica della quarta edizione dell'Hip Hop Cinefest. In versione streaming dal 29 aprile al 19 maggio e un evento finale 10 e 11 maggio alla Casa della Cultura di Tor Pignattara a Roma. Ben trovata! Ciao a tutti e a tutte, grazie come sempre per lo spazio. Raccontiamo cos'è per chi ci ascolta. Il Pop Cinefest è uno dei 5 festival al mondo dedicato alla visione cinematografica del mondo attraverso l'occhio hip hop. Quindi noi raccogliamo titoli da tutto il mondo che sono documentari lunghi, corti, progetti di finzione lunghi, corti, progetti sperimentali, videoclip musicali e serialità web e non, che ci raccontano il mondo e l'hip hop. Quest'anno abbiamo 122 progetti in concorso da 26 paesi e da oggi sul nostro sito hiphopcinefest.org sono disponibili gli streaming completamente gratuiti fino al 19 di maggio ed è possibile per il pubblico votare. Infatti fino al giorno prima delle finali del festival, quindi entro il 9 di maggio, abbiamo la possibilità di avere il voto dal pubblico e quindi ci sarà un film o video, a seconda insomma di chi riceverà le maggiori votazioni, ad essere eletto insomma dalla giuria popolare. Com'è stata la scelta? Un mese dopo la fine del festival facciamo sempre l'apertura delle call attraverso una piattaforma che si chiama Film Freeway e ovviamente, siccome il nostro è un genere un po' particolare, ancora dibattiamo sul fatto che possa essere un genere o meno, facciamo un grosso lavoro di scouting attraverso un team gigante di volontari, siamo tutti volontari insomma a questo progetto, e così andiamo a cercare paese per paese attraverso le diverse comunità hip hop i film che sono usciti o che fanno parte del passato, entrando così in contatto con moltissime realtà interessanti. Ed è per questo che anche le conferenze che si terranno durante le giornate del festival hanno tematiche molto molto varie, sempre sono connesse al discorso della cinematografia, però poi entriamo in tematiche tipo hip hop e narcostati, hip hop e resistenza, femminismo hip hop, quindi insomma andiamo a toccare temi che a volte potrebbero sembrare distanti, perché chi non è appassionato del mondo hip hop dice ma come, parliamo di questi temi attraverso questa cultura, e invece sì. Come si sta evolvendo il rapporto tra hip hop e cinema? Stiamo vedendo che la comunità sta crescendo. Se uno parte all'indietro, insomma dagli anni 80 con i primi film Wild Style, Beat Street, che comunque erano dei blockbuster, sono usciti e che hanno un po' in qualche maniera divulgato la cultura hip hop in varie versioni insomma in tutto il mondo, ad oggi ci sono moltissime persone invece membri della comunità che sentono la necessità di raccontarsi e di raccontare la loro storia, a volte in maniera anche un po' incosciente, istintiva, e quello che noi vogliamo fare è cercare di far prendere coscienza a chi effettivamente decide di narrare l'hip hop attraverso il cinema e fa parte della comunità, fare rete tra di noi in maniera tale da poter avere anche una sorta di mercato parallelo, perché poi quello che noi vediamo è che ci sono veramente dei titoli preziosi artisticamente e non solo, anche a livello di concetto e di messaggio, però che rimangono sconosciuti. Un altro grosso lavoro che noi facciamo è sottotitolare in italiano tutti i film che vanno in finale, in maniera tale che si possano poi organizzare anche delle proiezioni nel corso dell'anno e aiutare gli autori a divulgare il loro lavoro anche qui. Noi chiediamo sempre i sottotitoli anche in inglese, abbiamo un grande pubblico in Latino America e quindi stiamo cercando di avere supporto anche per le sottotitolature in spagnolo, tanto che alcune parti del festival sono in spagnolo, non sono in inglese, come l'annuncio dei finalisti che faremo il 5 maggio sera in supporto con un grande sito latinoamericano che si chiama Rapealo, tanto che noi abbiamo uno spin-off addirittura in Costa Rica e loro sono i nostri rappresentanti, insomma, nel Latino America. Come saranno strutturate le due versioni, streaming e l'evento finale? La versione streaming, tutti i titoli, come in una piattaforma streaming classica, sono disponibili contemporaneamente. La piattaforma si chiama Filmocracy e, come dicevamo, l'accesso è totalmente gratuito. Ovviamente noi abbiamo messo un link di donazione perché, essendo un progetto autofinanziato, chiediamo al nostro pubblico di aiutarci come può. Quindi già da adesso è possibile andare sul nostro sito hiphopcinefest.org, cliccare sulla home, sì, ed entrare nella piattaforma Filmocracy, oppure andare nella piattaforma Filmocracy e nei festival in corso troverete i Pop Cinefest. Quindi da lì i film sono suddivisi nelle diverse categorie e potete scegliere se vedere documentari corti, lunghi, tutti quanti hanno le cinosci sotto, così per poter, insomma, dare un'analisi anche maggiore al film da vedere. Nella piattaforma è tutto sottotitolato in inglese. Di questi titoli una piccola selezione andrà effettivamente in finale e questo programma sarà annunciato lunedì 6, in cui effettivamente avremo poi tutti i titoli finalisti, e nelle giornate del 10 e dell'11 avremo diversi blocchi di proiezioni con i film in corso. Contemporaneamente nella sala conferenze invece avremo i dibattiti di cui parlavamo anche prima, e tutto questo quest'anno sarà alla Casa della Cultura di Bertigna a Tara, a via Casilina 665. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il nostro sito è hiphopcinefest.org ed è identico per la nostra pagina Facebook, per il nostro canale YouTube e per quanto riguarda anche Instagram, dove trovate sempre tutto aggiornato. A partire dal 3 maggio inizieremo con una serie di serate, proiezioni, DJ set con gli ospiti che iniziano ad arrivare dalle diverse parti del mondo, e quindi ci piace l'idea di potergli dare valore e di iniziare di aggregare anche la comunità su Roma man mano che arrivano anche tutte le altre persone dall'estero. Quarta edizione dell'Hip Hop Cinefest in streaming dal 29 aprile al 19 maggio 2024, con un evento finale 10 e 11 maggio a Roma alla Casa della Cultura di Tor Pignattara. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giulia Giorgi. A presto! A presto! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.